Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Facebook in qualche maniera ci segue anche quando noi non lo sappiamo. Pensavamo, immaginavamo, agli albori eravamo convinti che fosse una simpatica maniera per ritrovare dei compagni di classe perduti, poi in forma meno accettata e sicuramente più clandestina, fosse una simpatica maniera per acchiappare amicizie, amori, amorazzi, intrallazzi, via dicendo. Pensavamo che fosse un'ottima maniera, dicono i moralisti, per farsi foto, per appagare il proprio ego, per far vedere e schiattare gli altri di quanto siamo bravi, quanto è bella la nostra vita, quanto è bella la nostra casa, quanto sono belli i vestiti nuovi, quanto sono belle i luoghi di vacanza dove andiamo. Ma in realtà, alla fine, è uno strumento per far vendere merce, è uno strumento che ci segue, è uno strumento che ci traccia, è uno strumento che memorizza al di là del nostro volere i nostri gusti. Perché? Perché per qualcuno è molto importante sapere quali sono le nostre predilezioni nell'acquisto, nella frequentazione, nel muoversi, nello spostamento. A questo, finalmente, abbiamo capito, serve Facebook. E tutto il discorso che siamo fatti sulla civilizzazione digitale, sui social network, sul mondo che cambia, sui vecchi media che sono completamente tracollati, l'abbiamo visto pochi giorni fa con un'analisi che è oggettiva. I giornali, la carta stampata, ma anche la televisione non riesce più a incidere sulle scelte politiche. Quindi su cosa si matura l'orientamento nella scelta politica, ma anche nelle scelte di vita? Probabilmente nella rete. Ma allora oggi vogliamo fare un punto su cosa sia la rete, cosa diventa la rete, qual è il senso della rete, visto che ormai ci siamo tutti dentro, visto che ormai sono il primo a dirlo, non usciremo mai più finché saremo vivi, finché ancora esisterà la possibilità di connettersi. Non ne possiamo più fare a meno, perché per quanto si dica, per quanto si facciano dichiarazioni di astensionismo, di quanto si promettano fioretti, per quanto si possa avere dei ritorni di fiamma luddisti, comunque sia non possiamo girare per una città se non abbiamo il telefonino che ci indica le strade, non riusciamo a avere relazioni umane se non possiamo avere la possibilità di avere su WhatsApp un'immediata certificazione dell'esistenza di una persona. Quindi della rete non potremmo più fare a meno, siamo nella rete. Ma è importante fare a questo punto una riflessione sul luogo dove siamo, in quale frangente ci troviamo. Il vecchio mondo ormai trapassato, dimenticato, il nuovo mondo sembrava così fulgido e sembrava anche qualcosa da dover attraversare, e già ci siamo dentro. Adesso che ci siamo dentro è un po' come una storia d'amore nella fase della maturazione, in cui uno si rende conto e dice: ah, quanto era bello quando ci palpitava il cuore. Noi diremo: ah, quanto era bello quando non vedevamo l'ora di accendere il nostro modem e entrare in rete, perché ci sembrava di vedere posti meravigliosi. Siamo nella meraviglia, e quindi facciamo il punto su questa meraviglia. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Ci siamo lasciati un istante fa dicendo che il nostro intento era fare un punto lungo il nostro cammino di civilizzazione digitale. Siamo già digitalmente civilizzati? Ma probabilmente sì, perché ne parliamo con la tranquillità, con il distacco e con la leggerezza con cui uno parla di qualcosa che già appartiene in maniera indelebile alla propria esperienza di vita. Però è il caso di accorgerci a che punto siamo, come quando si fanno i punti a un certo punto nel corso della propria esistenza, nel corso di una propria relazione, su una propria storia professionale, dove vogliamo andare oltre, ci vogliamo fermare, vogliamo capire cosa stiamo facendo. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica, è il nostro ospite di riferimento quando ci poniamo temi simili. Allora, partiamo dalla notizia dalla quale appunto inizia tutto. Facebook ci seguirà anche nei negozi, è il pezzo di Giuliana Luffi uscito su Repubblica. Sembrava che il giovane nerd Mark Zuckerberg fosse qualcuno che ci aveva insegnato una nuova maniera di porsi nei confronti del mondo, cambiava la relazione, cambiava il nostro rapporto con l'umanità, con il territorio. Questa notizia riporterebbe a dar ragione, sembra quasi, a quelli che dicono che in fondo la rete non è altro che un grande supermarket che ha l'interesse di tracciarti come cliente. È così? Esattamente così? Ma direi che questo è uno dei tentativi di far rendere tutte le informazioni che la rete ha su di noi, perché appunto fino adesso si è sempre detto che la raccolta di questi dati avrebbe generato un indotto incredibile, molto denaro, ma fino adesso, a parte Google, sono davvero poche le ditte che possono dire di essere diventate molto ricche attraverso l'uso della rete. Il tentativo di Zuckerberg va esattamente in questa direzione, quindi questi dati sono adesso accessibili ad altri operatori, non più semplicemente a operatori istituzionali come gestori dei cellulari piuttosto che le forze di polizia, ma anche appunto a operatori tipo commerciali come alla fine Facebook. Ecco, ci dicevamo prima, dico, ma per me non sussiste il problema, io ci ho sempre spento il GPS salvo che non debba trovarmi una strada, quindi non mi sta tracciando Facebook, quindi non so cosa potranno vedere di me. Ma non è così, in realtà un cellulare ha almeno tre modi diversi per identificare, per geolocalizzarci, come ci dice appunto. Il primo è il GPS, il più evidente, anche il modo più preciso, per carità. Il secondo è attraverso la scheda del cellulare, perché possa funzionare il telefono cellulare deve sapere come cambicella, come cambicella. Come cambicella, in realtà incrociando le celle, insomma, si può sapere con molta precisione dove ci troviamo. Il terzo modo in realtà di individuarci è tenendo accesa la rete Wi-Fi. Le reti Wi-Fi hanno access point che sono localizzati in un certo posto, quindi anche se io non accedo ma semplicemente mi faccio vivo su quella rete Wi-Fi, io posso essere localizzato con precisione. La maggior parte dei negozi adesso come adesso ha una rete Wi-Fi, di conseguenza nel momento in cui entro nel negozio, sono immediatamente localizzato. Quindi diciamo è l'equazione perfetta a questo punto, un pubblico che prima andava accalappiato con le campagne, con l'advertising spinto, con delle esche messe qua e là, a questo punto tranquillamente tu ne individui e ne tracci la transumanza, quindi è il negozio stesso che sa esattamente, è come un cacciatore di passo che si mette dentro la botte e aspetta che passano le anatre. Certo, ma non solo, no? Se io vado in un certo tipo di negozio e comprerò determinate cose, che so, il sabato pomeriggio io esco sempre a comprare una collana, a questo punto il sabato mattina potrebbero arrivarmi le offerte speciali sulle collane piuttosto che su oggetti di questo genere che io compro di solito il sabato pomeriggio. Ti ricordi, noi che siamo vecchi, qualche anno fa ci meravigliavamo, tu un giorno mi hai chiamato, ti eri accorto che ti davano delle indicazioni del treno che dovevi prendevi tutti i giorni, ma chi gliel'ha detto che io prendo questo? Era parecchi anni fa, cos'era? Una cosa del genere? Era Google Now, eravamo agli albori di queste cose. Ma una cosa impossibile, ti suggerivano di prendere un treno che aveva un ritardo invece di un altro. Dici, ma come lo sanno? Sì, adesso in realtà questo sistema appunto che è tipico di tutti, va attivato, però è attivabile in tutti i sistemi Android, è diventato migliore in qualche modo, perché effettivamente io tutte le mattine ho il cellulare che mi dice guarda che ti sta partendo il treno, vai, perché se no arrivi in tempo. Ma allora sembrava qualcosa che non capivi, perché nessuno ti aveva avvertito con sicurezza. All'inizio era abbastanza non sapevamo ancora, sì, che era tracciato, sì, questa nostra abitudine. Sì. Ma è veramente pervasiva questa cosa, appunto. Vabbè, poi con Google che di fatto insomma monitora tutte le nostre mail, uno ha informazioni su tutto, sul pacco che gli sta arrivando piuttosto che sulla raccomandata, è davvero sulle notizie, insomma io ogni mattina ricevo una raccolta di notizie che tutto sommato è determinata dai miei interessi, insomma c'è un rischio ovviamente, no? Quello di conoscere unicamente le cose che riguardano la tua sfera principale, diciamo così, la tua sfera di interesse, e non avere, quindi uno tende un po' a polarizzare la propria attenzione su delle cose specifiche. Però oggi quello che qualche anno fa il Daily Mino, il giornale fatto su misura, sembrava anche questo leggenda, adesso semplicemente viene fatto in maniera automatica e con precisione crescente, cioè più uno lo usa e più effettivamente ti vengono consigliate notizie che ti interessano. Queste potrebbero essere alcune delle ragioni per cui qualcuno sta cominciando a ripensare su quello che una volta consideravamo il nostro fiore all'occhiello, essere stati fra i precursori, i pionieri, i primi ci muovevamo in rete. Io Andrea Rossetti l'ho conosciuto Second Life, sembra una cosa che ormai appartiene a un altro millennio, ma c'è stato un momento in cui l'umanità, e per primo Gian Roberto Casaleggio, buon'anima di cui oggi si celebra l'imperitura memoria, mi ricordo una volta mi chiamò, mi disse perché sei andato nell'isola di Di Pietro che gestisco io a fare un droga parti sul divanetto di Di Pietro, sto gestendo questa cosa. E noi ci siamo conosciuti lì dentro, sembrava un gioco, una cosa che appartiene a altri mondi. Oggi però Federico Mello, buongiorno Federico Mello innanzitutto. Buongiorno a tutti. Giornalista, blogger, ha fatto parte del gruppo fondatore del Fatto, da anni che si occupa di internet, di cultura, di comunicazione. Abbiamo avuto ospite qualche giorno fa proprio per commentare i risultati dei ballottaggi nelle amministrative in Italia. Oggi esce con un suo nuovo libro, Le confessioni di un nerd romantico, imprimato con editore. Sembra quasi una sorta di libro del pentimento, o mi sbaglio? Assolutamente lo è, un libro del pentimento, ed è un po' inevitabile che fosse così. Io dico spesso che rispetto alle tecnologie digitali ci siamo un po' tutti ritrovati ad essere cavi a nostro malgrado, non avendo un libretto di istruzioni, no? Perché ci siamo trovati nella rivoluzione digitale, tu sei stato uno degli antesignani, no? Gianluca, io ho cominciato verso il 2003-2004 da blogger. Ti sono stato padre, ti sono stato. In qualche maniera sì. Però oggi ci ritroviamo insieme come reduci di una grande guerra, che stanno al giardinetto a giocare a bocce, dicono ah che bello coi tempi passati, ma è così? Ma guarda, io non penso che sia così, anzi penso che l'esperienza che abbiamo accumulato possa servire molto a svelare, come dire, uno stato delle cose che magari a chi ci è arrivato dopo non appare del tutto chiaro. D'altronde questo succede con tutte le tecnologie, no? Prendiamo per esempio l'automobile, l'autovettura. Chi può negare che con lo sviluppo delle utilitarie c'è stata una grandissima possibilità di libertà per tutti, di spostamento, di imboscamento, di confronto con gli altri, di incontro? Però poi è chiaro che una società dove l'autovettura diventa troppo protagonista si porta dietro dei problemi di inquinamento, di incidenti stradali, anche di pigrizia, no? di scarso moto, cioè è un po' come quando si passa fondamentalmente dalla società affamata alla società obesa, no? È un po' come quando ti accorgi dell'odore dell'alito pesante alla persona che ha rappresentato il tuo sogno erotico per i primi tempi di una relazione, la stessa cosa. È bello, è molto bello come fenomeno, però è realistico. Come osservazione, io ti dico che da nerd, perché appunto tale mi definisco, però un nerd pentito, mi sembra che siamo nella fase, diciamo, dell'introspezione e del pentimento del nerd. Totalmente, ma non per una questione ideologica o sociologica, per una questione di benessere personale. Io penso che, guarda, la resistenza nerd romantica sia quasi un'arte marziale necessaria, ecco. E quando tu dici l'alito pesante della donna che abbiamo sempre sognato... O anche l'uomo, non siamo... Sì, certo, naturalmente. Io quest'alito ho cominciato a sentirlo abbastanza presto da blogger e poi da giornalista che aveva come lavoro, che pagava l'affitto, riceveva uno stipendio per riportare sulla carta stampata quello che succedeva in rete già nel 2009 e nel 2010. Io l'essere sopraffatto dal numero di informazioni che mi arrivavano, di notifiche, di retweet, lo vivevo come un problema, ma lo consideravo un po' uno dei rischi del mestiere, come dire, un calciatore che mette in conto di rompersi il menisco in qualche maniera. Mi sono accorto a un certo punto che però tutti diventavano nerd come me, cioè che una situazione estrema che vivevo io era diventato di fatto lo standard. E tutto sommato, se io a un certo punto mi sono accesi dei campanelli d'allarme e ho cominciato a riflettere, a studiare, scrivo nel libro, ad autoacherarmi e a elaborare questo pensiero nerd romantico, invece ho visto che senza strumenti era più difficoltoso per altri confrontarsi con questi problemi. E secondo me non voglio fare retorica, ma oggettivamente abbiamo bisogno degli strumenti per imparare a gestire questo tipo di tecnologia invece di essere gestiti. Poi guarda, Federico, io penso sia importante, perché sono le prime avvisaglie che ho che la generazione dei pionieri della rete, invece continuare ad andare a tutti i convegni, rappresentare le grandi glorie, gli arcangeli, i troni, le dominazioni, tutti i convegni in cui c'è sempre quello con ormai i capelli bianchi ma sempre lunghi sulle spalle, la camicia sempre sbottonata, l'orologio sempre particolarmente aggressivo e via dicendo, vai, racconta dei bei tempi. La prima volta qualcuno che ha vissuto e cavalcato i primordi di questa civilizzazione digitale comincia a dire, è un momento in cui dobbiamo fare una riflessione. E il terzo capitolo di Federico Mello, intitolato Perché l'hai fatto, sembra proprio l'inquisitoria domanda che fa il confessore al bambino e confessa i peccati della carne. Ci fermiamo un istante, poi mi risponderà Federico quali sono stati i peccati della carne della quale si sente maggiormente in colpa. A tra poco. JP Morgan Asset Management vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Melog. Cronache meridiane. Stiamo in questo momento sancendo una data storica. In questa odierna puntata di Melog, per la prima volta si affaccia alla ribalta una nuova generazione, che fa parte comunque del ciclo evolutivo dall'essere umano normalmente costituito e relazionato all'essere umano digitalmente strutturato. Per la prima volta assistiamo alla generazione dei pentiti digitali. Guardate, che i nativi digitali fossero una solenne cazzata lo stiamo capendo. Ormai il nativo digitale potrebbe avere 60 anni, 70 anni, 50 anni. Non c'è più una differenza strutturale, se non la meraviglia della mamma, per cui sempre lo scarafone è qualcosa di meraviglioso, che vede il bambino che già smanetta sul display dello smartphone, dice: capisci? Prima ancora di fare le aste e giocare con la matita, smanetta sullo smartphone. Grazie. Gli metti in mano quello, mettigli una matita e riprenderà a digitare con la matita. Non è che c'è stata un'evoluzione genetica. Però quello che ci sta dicendo Federico Mello, giornalista, blogger, tra i primi giornalisti a misurarsi con questa realtà, non dimenticate che la generazione di comunicatori ci ha sempre visto un grande sospetto. Io feci il mio esame di giornalismo, non ricordo in quale millennio, portando una tesina su internet, mi guardavano come se guardasse un alieno. Cioè, ma di che stai a parlare? Mi dicevano, non mi ricordo ancora, ma di che stai a parlare? Mi dicevano. Io mi sembrava essere stato tanto bravo a fare una tesina su internet, che allora internet era andare a visitare il Louvre e guardare il sito di Playboy negli anni, non so se hanno stati, primi anni 90, metà degli anni 90, qualcosa del genere. Federico Mello scrive un libro e parla le confessioni di un nerd romantico in maniera molto lieve, però fa una riflessione. Io ti avevo fatto una domanda, Federico, prima voglio sentire poi che ne pensa Andrea Rossetti, professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca e dove insegna anche informatica giuridica. Secondo te è il momento di fare una riflessione, senza andare dalla parte dei rancorosi, di coloro che ci ripensano, ma non fa parte proprio, diciamo, della novità del pensare digitale, a questo punto resettarci e riprogrammarci e fare un upgrade delle nostre convinzioni rispetto a tutto quello che abbiamo fatto e detto? Direi che sta iniziando l'epoca dell'uso consapevole, sì, in qualche maniera. O vogliamo fare reduci tutta la vita, come De Kerckhove, che ancora gira come mummia profetizza. Ormai credo che tutti noi ci siamo resi conto dei limiti dell'uso di queste tecnologie e anche di quanto tempo ci portino via, insomma, ci porti via l'uso di queste tecnologie. Quindi credo che tutti noi che siamo stati un po' ad adottare queste tecnologie all'inizio, io ho un account di posta elettronica dal 1992, no, dal 93, quando mi sono laureato, però adesso effettivamente, ad esempio, anche la posta elettronica la uso meno, insomma, stiamo iniziando a fare un uso critico delle tecnologie, i tecnoentusiasti sono sempre meno in giro, insomma, indipendentemente dalla generazione che fanno, ed effettivamente credo che appunto tra noi che usiamo bene o male la rete almeno da una quindicina d'anni si sta creando un nuovo modo di usarla, non la si rifiuta ovviamente perché è troppo comodo, non se ne può fare a meno, come dicevi tu prima Gianluca, però indubbiamente l'uso... Non è un atteggiamento luddista, no, no, assolutamente, ci si rende conto che però questo è uno strumento tra gli altri strumenti che abbiamo, non possiamo farne a meno, come l'automobile, tutto sommato, no? Non possiamo farne a meno, e però dobbiamo imparare a disciplinarci nell'uso che ne facciamo, ma proprio come diceva prima Mello, per la nostra salute prima ancora, no, che per motivi ideologici o teorici, per stare effettivamente meglio e per recuperare forse alcuni aspetti della nostra esistenza che abbiamo lasciato un po' in ombra, presi dall'entusiasmo dell'uso di queste cose, di queste tecnologie. Allora torno con Federico Mello, ricordo oggi esce il suo nuovo libro, Le confessioni di un nerd romantico, imprimato editore. Mi ero fermato sul titolo del terzo capitolo: perché l'hai fatto, figliuolo, perché l'hai fatto, sapendo che con le tue stesse mani facevi tanto male, la tua vista ne verrà fuori compromessa sicuramente, ma se l'hai fatto ci sarà stata una ragione, oltre che ti dava gusto. Sicuramente la ragione è sotto gli occhi di tutti, no? Soprattutto nella prima fase della scoperta della rete. È chiaro che io sono nato in provincia, nato e cresciuto a Lecce, all'inizio degli anni 90, ed è chiaro che l'accesso di informazioni, ma anche non so, delle fanzine musicali, di dischi, di libri, era chiaramente limitato, no? Era chiaramente minore che in altri centri. Però allora, quindi... scusa Federico, tu eri più avanti dei tuoi amici allora, avevi una diversità che avrei pagato anche con una minor presa sociale, comunque eri più avanti dei tuoi amici, vedevi dove loro non vedevano. Oggi accade il contrario, oggi quando un blog diventa, l'abbiamo detto l'altro ieri, il sancta sanctorum del movimento politico in questo momento, a torto ragione, nel bene o nel male, a qualcuno fa piacere, a qualcuno fa rabbia, ma il movimento politico che sta prendendo in mano la situazione politica italiana, e cosa c'ha al suo centro? Non è una carta costituzionale, ma è un blog. Quindi a questo punto non ha più senso star dalla parte dei precursori, si è passatisti nel continuare a incensare il dio blog. Ma assolutamente, è assolutamente questo, anzi secondo me è, è il grande strabismo che ci frega oggi. Cioè secondo me oggi esiste quella che io chiamo ideologia connettista, che dice una cosa molto semplice: più internet è sempre meglio di meno internet. Questo sembra un postulato di fede che è inscalfibile, che è entrato ormai nel senso comune, mentre proprio contro il connettismo, che io da nerd romantico voglio dire, voglio proporre una visione sostenibile. Oddio, ce l'avessimo una connessione duratura, stabile, gratuita a tutti, forse ragioneremmo con maggiore leggerezza. Questo io non lo so, però so sicuramente che noi continuiamo a guardare internet come l'internet degli esordi, delle facoltà di ricerca, degli hacker che si costruivano i computer da soli, delle forme come dire, di opinioni e di informazioni se vogliamo minoritarie, che trovavano finalmente uno spazio. Vediamo internet con quegli occhi lì, quando internet ormai è un palinsesto fatto in gran parte dai social network, quando internet si fonda fondamentalmente su un sistema che io nel libro descrivo simile a quello di un videogioco. Io dico che il nostro telefono è diventata la nostra social slot machine, cioè noi lo apriamo, guardiamo il telefono, guardiamo la schermata, apriamo Facebook, apriamo Twitter e cerchiamo fonti di piacere dalle quali siamo dipendenti. Infatti no? Molto in linea rispetto alla domanda che avevo fatto prima, figliuolo, quante volte l'hai fatto, è il capitolo 5, darsi piacere. Oggi in realtà è uno strumento di piacere, come la droga, dicono sì fa tanto male, però da gusto, all'inizio almeno da gusto. Tutte le droghe però da un periodo iniziale di piacere passano poi a un momento di bisogno, dove non c'è più il piacere di fare qualcosa, ma c'è il bisogno di farlo, o fra virgolette il piccolo dolore nella necessità di non poterlo fare. Cioè questo è secondo me oggettivamente quello che è avvenuto, e vorrei dire questa cosa perché la ritengo molto importante. La cosa che penso di aver detto per la prima volta in questo libro è di averla dimostrata in maniera abbastanza incontrovertibile, è come le piattaforme, e Facebook in particolare, come prima forma e come primo obiettivo del loro business, hanno assolutamente quello della dipendenza. Cioè Facebook mette continuamente in campo, tramite proprio all'analisi dei big data che facevamo prima, delle nuove impostazioni, dei nuovi strumenti, delle nuove gratifiche che servono prima di tutto ad aumentare la nostra dipendenza, e solo in un secondo momento, una volta che hanno conquistato la nostra attenzione, il nostro tempo, le nostre nevrosi, aggiungerei io. Fermo un attimo, viene in mente una cosa, lo chiedo però a Rossetti. Scusami, il meccanismo non recentissimo ma abbastanza recente di mandarti ogni mattina una briciola del tuo passato che avevi dimenticato. Ti vogliamo bene, ti mandiamo questa foto. Per me sono strappi al cuore. Ho visto oggi una foto di 7 anni fa che non immaginavo fossero passati 7 anni, con amiche mie di 7 anni fa, con cose che facevo 7 anni fa, macchine carne, un convegno che feci, e mi sono reso conto sono passati 7 anni. Per me erano passati 7 minuti. Ecco, voler giocare con anche la propria emotività, il proprio passato, la propria storia, è come se fosse il padrone della tua storia e lui ti fa ritirare fuori i momenti della tua storia a suo piacimento, dandoti queste sferzate di emotività. Ma in qualche modo noi piace, insomma, effettivamente se usiamo così tanto Facebook è perché alla fine Facebook risponde a qualche bisogno. Quando nostro, mai no? Mi sarei ricordato di quei momenti? Mai. Quindi effettivamente, cioè, un'innovazione ha successo anche se davvero risponde a un bisogno, ed effettivamente Facebook risponde al nostro bisogno di ricordare in maniera più o meno precisa il nostro passato, senza più nessun dubbio, in maniera chiara se vogliamo. Però questa è stata la grande trovata di Facebook, che ovviamente cerca, come diceva giustamente Melo, di tenerci dentro, no? Facebook cerca di tenerci sempre al suo interno, di creare addiction, proprio in maniera che l'unica piattaforma che io uso è Facebook, perché più uso Facebook più lascio da dentro Facebook. Quindi aveva bisogno di storicizzarci, ha bisogno di un tempo minimo indispensabile, perché cioè, 7 anni diciamo è una fetta importante la vita di un essere umano. Un Facebook di 3 anni non avrebbe dato la stessa sensazione di essere lo scrigno della nostra memoria. Certo. Sette anni, noi siamo entrati in Facebook nel 2007-2008, quindi sì, erano 2008. I primi albori di questa cosa qui. Sì, è chiaro che quelli che sono nati adesso si vedranno per tutta la vita in qualche modo perseguitati da quello che facevano 30 anni prima, 20 anni prima, e sarà effettivamente un modo completamente diverso di percepire la nostra storia, e quindi anche io credo di percepire la nostra identità personale. Su queste cose noi non abbiamo ancora la misura, perché siamo davvero agli inizi, però secondo me ci sarà una percezione proprio diversa che le persone avranno di se stesse con l'andare del tempo. No, adesso mi interessa una cosa per Andrea, accendamelo adesso, prendo la pausa, poi me lo svisceri meglio. Noi già facciamo questo discorso ormai di controriforma totale sulle nostre abitudini digitali, non che vogliamo tornare al passato, ma lucidamente riflettiamo, noi che l'abbiamo visto nel suo evolversi, l'abbiamo bevuto giorno dopo giorno, oggi diciamo bisogna fare una riflessione. Com'è però la normativa che regola la vita concreta degli uomini, quindi gli aspetti giuridici, ancora sono così fluttuanti, così poco certi? Già è cambiato il sistema, è cambiato tutto, ma ancora non abbiamo un diritto che in qualche maniera ci dia ragione che è accaduto qualcosa. Sì, sintomatico di questo è proprio la nuova legge sulla privacy, nuova per modo di dire, perché in realtà non cogli la novità degli ultimi anni, che è l'introduzione dei big data. Con i big data ogni idea di dato personale, di dato sensibile di una persona, semplicemente va completamente, e il legislatore, anche quello europeo, ancora non si è reso conto di questo fatto. I big data sono quelli che nei prossimi anni determineranno molte delle nostre scelte, indubbiamente. Quindi abbiamo un diritto che ancora non si rende conto, dove è arrivato Facebook, e ancora diciamo sta creando norme basate su una rete quasi pre-social, diciamo. Sì, pre-social. Sì, esatto. Direi pre-social, perché questa, l'impianto della legge è del 1982-89, poi ripresa dall'Europa, però è una legge che ha un impianto degli anni 80, quando una cosa come Facebook era completamente e totalmente inimmaginabile. Quindi nemmeno un escape, 10 anni prima addirittura. 10 anni prima, sì, praticamente sì. Ci fermiamo un istante, tra poco. Sono dappertutto. Arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Melog. Cronache meridiane. Non avrei mai immaginato soltanto qualche anno fa di fare questa trasmissione con i miei amici, di sembrare dei vecchi rancorosi che cominciano a considerare il senso che hanno avuto le loro battaglie come reduci di battaglie perse. No, le battaglie le abbiamo vinte, è stato importante, abbiamo visto oltre, abbiamo anticipato i tempi, abbiamo bevuto fino in fondo quello che ci forniva la contemporaneità. Però adesso, proprio per questo, proprio perché continuiamo ad avere uno sguardo teso verso il futuro, quando tutto il mondo si pasce del fatto che la rete è diventata una sorta di feticcio idolatrato che rappresenta il luogo della verità, della giustizia, Svizzera, democrazia, noi guardiamo oltre, cerchiamo di capire in realtà quale sarà il passo successivo. Siamo digitalmente vaccinati, quindi non abbiamo nulla da scoprire, però facciamo una riflessione, ce ne prendiamo le responsabilità. Volevo adesso proporre ai miei due ospiti, che sono un professore di filosofia del diritto e un altro è un giornalista, però entrambi hanno seguito lo stesso iter di curiosità rispetto a ciò che era di nuovo, in momenti in cui si ne ha considerati degli eretici, o perlomeno dei maniaci, o perlomeno degli spostati. Io ho passato tutte le fasi in cui sono sempre stato visto come qualcosa di poco di buono, perché stavo in questo luogo, ci stanno soltanto i maniaci, la pornografia, e rubano i soldi, ci sono gli hacker cattivi. Ecco, oggi nessuno più direbbe quello, è il posto delle belle signorine, è il posto dei bravi cittadini, quindi è tutt'altra roba. E oggi proprio per questo noi vogliamo capire esattamente dove stiamo andando. Michela Paparella, buongiorno. Buongiorno. Michela Paparella è presidente dell'associazione Culta e della startup Io Consiglio, che ha anche un sito ioconsiglio.it. Perché ho chiamato Michela Paparella? Perché è l'esatta antitesi di quello che stiamo dicendo. È una persona fiduciosa in realtà in quelli che sono gli sviluppi etici della rete. La rete rende l'umanità più buona. Io Consiglio è un'app, adesso è soltanto un sito, sta per diventare un'app, basata sul fatto che io ho fiducia di alcune persone. Quindi da alcune persone accetto i loro consigli, anche in campi e in applicazioni che non necessariamente rispondono alla loro ragione professionale, alla loro esperienza di vita. Spiegami cos'è Io Consiglio, poi vediamo con i nostri esperti in che maniera ti demoliamo il tuo entusiasmo. Ma intanto non è tanto una questione di entusiasmo quanto al contrario, il fatto che proprio nella rete, di chi usa la rete, magari da anni, io da 20 anni mi occupo di internet, ci siano proprio gli anticorpi legati alla consapevolezza di chi... Sei anche tu una veterana, quindi. Eh sì, io ho scritto un libro su internet nel 97, dunque direi proprio di sì. Quando tutti dicevano che tempo 3 anni sarebbe morto. Certo, ti ricordi? I grossi dell'editoria, sì. Diciamo, eravamo al secondo, terzo aggiornamento di Windows 95. Usavo finalmente Telnet per mandare le mail, certo, con lo schermo nero, ecco. È proprio il contrario in realtà, nel senso, dal mio punto di vista... Diciamo tu sei nata fra Windows 95 e Windows 98, in questa Windows fase. Windows 95, 95. No, se il 97, sì, doveva venire Windows 98. No, nel senso, ho fatto il libro, le bozze sono state fatte con Windows 95. Dicevo, non è tanto una questione invece di buonismo quanto proprio di consapevolezza. Chi usa la rete non necessariamente è quell'ingenuo che si fa accalappiare dalla geolocalizzazione davanti a un punto verde. Ecco, ma su cosa hai riflettuto? Perché pensi che te... La riflessione è proprio quella, cioè, visto che ognuno di noi nella vita reale può avere un cervello, una testa, e non necessariamente le nuove tecnologie, i social, vanno demonizzati dal mio punto di vista, perché sono spesso un facilitatore fondamentale. Abbiamo pensato che Io Consiglio sia un modo per portare in rete una modalità che normalmente nella vita reale si ha, cioè quando io ho bisogno di cercare qualcosa, un negozio, un prodotto, un professionista, un medico, un idraulico, eccetera, cosa faccio in prima battuta? Lo chiedo alle persone di cui mi fido, alle persone che mi stanno intorno, glielo posso chiedere davanti a un caffè, davanti a una pizza, glielo posso chiedere via chat, via message, via mail, eccetera. Abbiamo cercato di portare a valore questo meccanismo. Si dice oggi che il consumatore diventa consumatore, quindi che diventi attore delle proprie scelte o addirittura consumautore. In quest'ottica, proprio su Io Consiglio, chi si iscrive diventa autore di propri consigli, quindi non solo le classiche recensioni di TripAdvisor, che poi sono per la maggior parte recensioni di persone strane, per cui le posso guardare e orientativamente mi faccio un'idea con un algoritmo molto veloce. Cioè i tuoi amici sono amici che ti danno consigli, che poi, di qua e poi si prendono anche la responsabilità. Ci mettono la faccia quando, nella vita reale, come su Io Consiglio, come in rete, nel momento in cui ti dico guarda, fidati, questo è un buon dentista, un buon veterinario, un buon idraulico, è un'ottima pizzeria, ci sto mettendo la faccia. Diciamo che sono residuali i casi in cui io stia cercando di spingere, cioè, invece che andare il locale di mio cugino, invece che andare su forum al femminile quando uno ha un problema alle parti basse, lo chiede a un'amica. Esattamente, lo chiede a un'amica, principalmente perché eventualmente, invece di fidarsi dei consigli di estranei, si chiede di persone che si pensa abbiano testato e abbiano una certa competenza. Ognuno di noi ha delle competenze, dei talenti, delle caratteristiche. Il fatto di mettere in rete il proprio, diciamo così, repository, il proprio insieme di patrimonio, di consigli su tutte le cose che si possono consigliare, dà nuovamente, grazie alla rete, un ruolo attivo. Ma come responsabilizza chi dà i consigli? In che maniera? Perché io ti consiglio un ristorante o anche un medico, entriamo in scelte molto più personali, anche un idraulico. Molto personali, esatto. Infatti ci sono anche livelli di privacy diversi nel momento in cui io posso o meno vedere alcuni consigli che tu inserisci sulla nostra piattaforma. La responsabilità sta nel fatto che innanzitutto tu ci stai mettendo la faccia, orientati. Il payoff del nostro progetto si chiama consigli veri da amici veri, va proprio contro l'ottica di vedere, che ne so, al centro un ristorante sotto 300 recensioni di persone sconosciute, tra l'altro c'è anche tutto il tema delle recensioni false, eccetera, e va contro il fatto di vedere su Amazon un prodotto e avere 500 recensioni bellissime e bruttissime, perché sono concetti estremamente soggettivi. Quello che è caro per me potrebbe essere a buon prezzo. Però, scusa, un'ultima domanda, come evito che io ti possa consigliare fatti fare le foto da Fabrizio Intonti e chiaramente prendere la stecca da Fabrizio? Beh, no, nel senso, come lo eviti nella vita reale? Non lo eviti, nel senso, la terza volta che cominci io ti chiedo un consiglio e mi consigli un tuo amico, che può essere bravissimo, se tu ci credi tu fai bene. Io credo molto nella raccomandazione, è da noi che ha una connotazione estremamente negativa in Italia, ma la raccomandazione, anche etimologicamente parlando, ha un grosso valore. Io sto mettendo il cuore in quello che ti sto dicendo, tant'è che c'è una ricerca Nielsen appena uscita su più o meno 30.000 consumatori in Europa, che dice che i consumatori italiani europei si fidano al 66% dei consigli di persone che conoscono fisicamente, perché le conoscono e magari non hanno gli stessi gusti. Allora fermati un attimo, Michela, perché siamo vicino alla fine, voglio sentire un attimo il parere sia di Rossetti che di Mello, molto veloce. Andrea, qual è la differenza rispetto alla strategia Zuckerberg rispetto a quello che questa ragazza sta cercando di fare con le sue sole forze? Zuckerberg cerca di catturare la nostra attenzione, invece con questo meccanismo si vende una delle merci più rare in rete e più preziosa, che è la fiducia nell'altro, il trust, la fiducia, che è quello che effettivamente conta. Secondo me questo meccanismo è quello, meccanismi di questo genere sono quelli che funzioneranno sempre di più in futuro. Io mi fido dell'altro e quindi l'altro mi consiglia, e meccanismi virtuosi di questo genere, appunto, non una recensione anonima o cose del genere, sono quelli che probabilmente in futuro ci daranno una maggiore resa sulla rete. Questo io credo sia davvero una buona idea in questo senso. Allora, il nerd romantico pensa che questa sia una possibile evoluzione, cioè una sorta di presa di coscienza etica rispetto alla propria presenza in rete? È una parolaccia, detta da me sembra una bestemmia, però mi sembra che questo sia. È meglio di Mark Zuckerberg, anche perché la strategia di Mark Zuckerberg è chiaramente l'opposto, e tutte le architetture di Facebook sono pensate, studiate e testate per andare esattamente nella direzione opposta, no? Cioè le indicazioni che ti dà Facebook è che stai facendo in questo momento, condividi questa cosa, condividi questa posizione, cioè non ti dice mai di pensarci un attimo, di valutare. Ma ha già detto che abolirà la scrittura, saranno solo video fra un po'. Solo video, infatti, cioè la società, come dire, il progresso aumentando il numero di operazioni si possono fare senza fatica, sembra questo il principio di Zuckerberg, cioè rendere tutto una pappa già premasticata e già pronta a eliminare qualsiasi sforzo. Quindi sicuramente queste esperienze possono essere interessanti. Io da nerd romantico non posso però che fare una semplice domanda. Ha detto la persona con la quale parlate, Michela Papalerella, sì. Michela, tutte queste operazioni, permette queste applicazioni, sono, ha ripetuto varie volte, come succede nella vita reale. Allora la mia domanda banale, nerd romantica, è: ma allora perché non farlo nella vita reale? Cioè c'è un po' di connettismo in questo, c'è un po' un'idea che più internet è comunque meglio di meno internet. Sì, no? Perché forse ovviamente, sai, nella vita reale bisogna uscire di casa, vedere le persone, parlarci, così in 30 secondi c'hai il consiglio alla persona. A questo siamo abituati. Sulla velocità nell'avere un contatto con un essere umano penso che non torneremo più indietro. Ma il problema sarà, e ne discuteremo in una prossima trasmissione, quale sarà la differenza fra il nerd romantico e il barboso passatista professore che ti diceva, mi diceva ai miei tempi, io mai rinuncerei alla mia penna stilografica, ti sbattevano questa pennaccia stilografica sotto il naso per farti capire che la storia del giornalismo l'hanno scritta loro con la loro penna e consumando i tacchi delle scarpe. Alla prossima.